ringraziare tutti e tutti di questa valle, Tente Bresciana, Radio Onda d'Urto che sta collaborando con voi, e volevamo veramente ringraziarvi per quello che state facendo. Vi porto il saluto dei compagni e delle compagne di Radio Onda d'Urto di Brescia e di Brescia tutto ovviamente. È un regalo simbolico da parte di un'altra resistenza simile alla vostra, quella degli indigeni del Chiapas, ai quali noi siamo molto affezionati. C'è il caffè del Chiapas, soprattutto della terra e non l'alta velocità. Uno striscione simbolico, un libro che si intitola Vennero come il vento e il calendario 2006, con un augurio per chi come loro rivendica fortemente il sacrosanto diritto di vivere la propria vita.